Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia di Filippo Astone. Buongiorno. Parlare di robot è sempre un argomento affascinante. Ed è un argomento affascinante perché o si va verso la fantascienza, quindi verso il robot umanoide, verso il robot che interagisce con noi, e chi mai non ha sognato di avere una fidanzata robot che non rompa le scatole? Oppure si va verso la polemica e allora i robot rubano lavoro all'uomo, i robot ci renderanno tutti disoccupati, ci vuole una tassa sui robot, argomento che tratteremo nella parte finale di questa trasmissione, eccetera, eccetera. Che significa questo? Significa che parlare di robot è affascinante per questi due motivi, ma sono motivi che non c'entrano un bel tubo con quello che sono davvero i robot. I robot sono macchine automatiche ad alto contenuto tecnologico che permettono di aumentare la produttività, e l'aumento della produttività vuol dire aumento della ricchezza e vuol dire che il lavoro si sposta verso aree a maggiore valore aggiunto. Questo vuol dire, è il nome robot che trae in inganno. In realtà, per esempio, la lavatrice sarebbe un robot per lavare, l'aspirapolvere sarebbe un robot per pulire, e se vogliamo parlare di posti di lavoro, chissà quanti posti di lavoro si potrebbero creare se mettiamo una bella tassa sulle lavatrici e torniamo ad occupare tante belle lavandaie. Di che cosa sono oggi i robot? Ne parliamo con Marco Gherardello, che è il nostro ospite di oggi. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, lui è l'amministratore in Italia, delegato in Italia di Fanuc. O Fanuc? Fanuc. L'amministratore delegato in Italia di Fanuc. Dovete sapere, poi lo sentirete in una scheda, che i robot sono prodotti in quasi totalità da quattro grandi multinazionali: Fanuc, che è giapponese ed è la protagonista di questa puntata di oggi, KUKA, che è già stata nostro ospite due settimane fa, che è tedesca ma è stata comprata dai cinesi, ABB, che è svizzero-svedese, e l'italiana Comau. Fanuc è la più grande di tutte queste, 4,7 miliardi di euro di fatturato per 6.000 dipendenti, appena 6.000 dipendenti, ed è quella che ad opera del suo fondatore Seiyomon Inaba nel 1956 si è inventata i controlli numerici che poi sono alla base della robotica. Ora, siccome adesso l'argomento di moda è l'Industry 4.0 ed è una cosa tedesca e in parte americana, i giapponesi sono rimasti un po' nell'angolo del dibattito mediatico, ma ciò non toglie che i primi robot se li siano proprio inventati loro. E forse non è un caso che i robot li abbiamo anche visti come protagonisti dei primi cartoni animati, che erano quelli della nostra infanzia e che erano giapponesi. Lei che dice? Sì, beh, anche perché il primo robot è stato, per quello che riguarda Fanuc, prodotto e commercializzato nel 1974. All'epoca di Goldrake. Esatto. Quindi sono sicuramente sul mercato industriale da moltissimo tempo e hanno sicuramente ispirato anche cartoni animati che abbiamo visto da piccoli. Che erano giapponesi. Assolutamente. Senta, ma allora spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è davvero un robot industriale come quelli che fate voi? Ma è un prodotto che, come diceva lei, è basato su un controllo numerico, per cui su un cervello che riesce ad elaborare dati molto velocemente, in modo molto preciso, e viene utilizzato all'interno delle industrie per migliorare la produzione e i processi nel creare i prodotti. Fanuc parte come costola di Fujitsu. Corretto. E parte facendo i controlli numerici, che sono quelli che hanno reso possibili i robot. Che cosa sono i controlli numerici? Sono il cervello contenuto all'interno delle macchine utensili, che sono presenti nelle nostre aziende sono quelli che permettono poi agli assi delle macchine utensili di muoversi in modo rapido e veloce e poi dare il via alla produzione di componenti meccanici che poi vanno in tutte le aziende, dall'automotive. Ma che cos'è una macchina utensile? La macchina utensile è un prodotto dove bisogna immaginarla come una grande scatola all'interno della quale ci sono utensili che possono permettere il taglio, la foratura, la finitura di questi componenti metallici che poi sono il cambio dell'automobile, possono essere la scatola del cambio, possono essere anche gli occhiali da sole che indossiamo, insomma tutto quello che ci circonda. Quindi la macchina che funziona come l'utensile, perché l'utensile era quello che un tempo permetteva di scolpire, esatto, a mano, e lo fai invece con la macchina, esatto. E il controllo numerico è il piccolo cervello elettronico che c'è a bordo della macchina utensile. Sì, piccolo ma grande, perché è quello che gli permette, ripeto, di ottimizzare al meglio questi processi, quindi di avere la miglior produttività con la miglior precisione possibile. E quindi poi si passa dalla macchina utensile, dal controllo numerico per la macchina utensile al robot, perché praticamente si capisce che si può programmare la macchina per fare da sola, senza l'intervento umano, una serie di operazioni automatiche, una di fila all'altra. È sì, così? Sì, esatto. Poi il robot nel corso di questi anni è anche poi cresciuto, perché noi già da diversi anni avevamo dato ai nostri robot la possibilità di fare, ovvero ad esempio di toccare o di vedere senza aver necessità di nessun sensore esterno. Poi nello sviluppo di questi processi oggi gli abbiamo dato anche la capacità di pensare. Quindi questa Industry 4.0, che oggi va tanto di moda da un punto di vista applicativo, per noi è già una realtà da diversi anni, che abbiamo però chiaramente fatto evolvere facendo pensare il robot. E quindi cosa vuol dire facendo pensare il robot? Vede che quindi è sempre meglio di una fidanzata rompiscatole, che poi le fidanzate che fanno? Fanno l'overthinking. Tu dici una cosa e c'è la lettura di quella cosa in un modo completamente astruso e totalmente lontano dai tuoi pensieri, una lettura che tu non avresti nemmeno potuto concepire e che, di cui ignoravi l'esistenza fino a quando non ti è stata detta, e poi diventa quello e poi diventa la tua condanna, perché poi tu sei colpevole di quella lettura che sta nella testa loro. E un robot non lo fa. Beh, col fatto che lo stiamo almeno spero, perché altrimenti vuol dire che non c'è via di scampo. Ma guardi, in realtà l'apprendimento automatico, il machine learning di cui si sta parlando tanto, che fa parte nel nostro mondo, nel mondo Fanuc, di parte di questa evoluzione, fa sì che il robot, in base ai dati raccolti, possa trovare il modo di migliorare ciò che sta facendo per raggiungere il risultato per cui è stato programmato. Quindi ad esempio essere più veloce nel caricare una macchina o ad essere più preciso. Per cui questo overthinking di cui lei sta parlando è qualcosa che i robot progressivamente faranno per migliorare però quello che stanno facendo, non per farlo peggio. Vede quindi che funziona l'idea della fidanzata robot. Ci aveva pensato Alberto Sordi e devo dire che forse non sbagliava, tant'è che lui donne in casa non ne aveva mai avute. Però torniamo ai robot. Ma allora, ci spieghi in poche parole che cosa fanno questi robot della Fanuc? Fanno tutto ciò che ci circonda, nel senso sono all'interno di dei maggiori settori industriali di cui si parla, quindi fanno le automobili, le saldano, le verniciano, servono per movimentare le acque o le bibite che beviamo a pranzo o a cena, lo stesso servono in certi casi anche per fare i gelati, insomma fanno tutta quella serie di attività che l'uomo oggi non può più fare. E non deve neanche più fare, perché sono attività pessime, come, esatto, quelle delle lavandaie prima delle lavatrici. Comunque, la storia di Fanu, che è veramente affascinante, io ve la faccio sentire e poi c'è una breve pausa. Con 6 miliardi di dollari di ricavi, 400.000 robot installati e 60 anni di storia, la giapponese Fanuc è uno dei principali produttori mondiali di robot. Gli altri sono l'italiana Comau, la svizzero-svedese ABB, la cino-tedesca KUKA. Fanuc è l'acronimo di Factory Automation Numerical Control. Tale acronimo si spiega col fatto che nel 1956, quando il fondatore Seiyuemon Inaba creò Fanuc come parte del gruppo Fujitsu, da cui poi negli anni 70 si staccò, l'attività erano proprio i controlli numerici, veri e propri cervelli elettronici, all'epoca naturalmente rudimentali, che programmavano sequenze di attività sulle macchine utensili. Dall'evoluzione dei controlli numerici si arrivò, passo dopo passo, ai moderni robot industriali complessi. Tuttavia, ancora oggi Fanuc è leader nei controlli numerici, con una quota di mercato del 65%. La società ha sede a Yamanashi, ai piedi del monte Fuju, da cui prende il nome anche l'ex casa madre Fujitsu. Seiyuemon Inaba, ultra novantenne ancora molto lucido, oggi è ancora in azienda come presidente onorario. Il CEO è il figlio Yoshiharu Inaba. Nonostante l'importante presenza della famiglia, Fanuc è quotata alla borsa di Tokyo, fa parte degli indici azionari Topix 100 e Nikkei 225 ed esibisce agli investitori con orgoglio un utile netto molto importante, ben 1,7 miliardi di dollari, rispetto ai ricavi che, come si è detto, sono di 6 miliardi. In pratica, l'utile netto è quasi un terzo dei ricavi, eccellente dimostrazione di come l'automazione crei valore economico. Fanuc è anche molto presente nelle cosiddette robot macchine, apparecchi automatizzati che si presentano come grandi scatoloni chiusi, senza nulla di antropomorfo e che sono in grado di realizzare produzioni finite. Fanuc fornisce tutto ciò che serve per le fabbriche completamente automatizzate e robotizzate, anche software e servizi. Recentemente ha lanciato Field, un sistema operativo open platform simile ad iOS di Apple o Android, su cui produttori di macchine utensili o di periferiche possono sviluppare la propria applicazione di manutenzione predittiva, machine learning, apprendimento automatico, controllo e miglioramento dell'efficienza degli impianti. L'obiettivo di Fanuc è quello di avere macchine utensili e robot che siano in grado di svolgere anche tre tipi importanti di attività. La prima è riconoscere anche piccole variazioni che l'uomo non può riconoscere del sistema in cui lavorano e adattarsi. La seconda è di imparare a migliorare il ciclo che stanno eseguendo. La terza è di comunicare tra di loro le migliorie trovate. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Marco Gherardello di Fanuc, che è il massimo produttore di robot al mondo ed è giapponese, e parlavamo un po' tra il serio e il faceto, ma più verso il serio, della possibilità dei robot di apprendere, stiamo parlando di robot industriali. Che cos'è il machine learning? È il prossimo passo verso la quale stiamo facendo nel nostro interno dei passi, appunto, direi piuttosto importanti. Infatti abbiamo già delle applicazioni in fase di test ed è praticamente la possibilità da parte del robot, del controllo numerico, di apprendere dall'esperienza delle operazioni che sta facendo in produzione senza essere stato esplicitamente programmato per questo. Praticamente in base ai dati raccolti il robot o il CN può trovare il modo migliore per raggiungere il risultato per cui è stato impostato. Quindi ad esempio, ripeto, essere più veloce a caricare una macchina utensile o fare il modo più preciso possibile una determinata lavorazione. Ma infatti si parla anche di robot per l'assistenza agli anziani e ai malati? Sì. E questo non è che fa venire meno il ruolo della badante o il ruolo umano, ma ci sono tante cose che una persona che è in difficoltà può fare grazie al robot, per esempio aiutare ad alzarsi, aiutare ad andare in bagno, aiutare a fare tutta una serie di mansioni che poi magari anche per il personale umano sono solo sgradevoli, perché io so che cosa significa poi avere per esempio un anziano che non si può muovere. Sì, anche ricordarsi di prendere una pillola. Ad esempio in Giappone, per quello che ne so, per quello che ho visto, alcuni di questi service robot, così vengono definiti, sono già in commercio. In Giappone sappiamo che è una popolazione molto anziana ed effettivamente l'introduzione e anche le vendite di questi robot stanno aumentando in modo, direi, abbastanza importante. Ecco, quello della possibilità di apprendere e di migliorare il ciclo di lavoro che stanno eseguendo è una cosa che è tra gli obiettivi di Field, un sistema operativo che avete sviluppato voi. Sì, Field è una sorta di appunto sistema open platform, giusto per capirci, simile a iOS di Apple o Android, su cui i produttori di macchine utensili, di periferiche, noi stessi, possono sviluppare un'applicazione. È un'applicazione che può essere utilizzata per manutenzione predittiva, per l'apprendimento automatico di cui abbiamo parlato prima, o anche per il controllo e il miglioramento dell'efficienza degli impianti. È un sistema proprietario di FANUC, su cui alcune applicazioni sono già state sviluppate. Una di queste, che noi chiamiamo ZDT per la manutenzione predittiva, è stata testata per più di 3 anni ed è stata introdotta in commercio qualche quindi praticamente è un software. Sì, un software che raccoglie ed analizza tutti i dati che vengono forniti dal robot e indica, ad esempio, chiaramente dove un programma può essere modificato per far lavorare meglio il robot, oppure indica quale componente può avere più bisogno di manutenzione in quanto più stressato in quella particolare lavorazione. Di conseguenza si possono effettuare le sostituzioni di questi componenti durante manutenzioni programmate senza dover fermare la produzione magari proprio quando è un picco. Dei primi dati che abbiamo visto su un test direi piuttosto importante su più di 7.000 unità fatte da un importante produttore automobilistico americano, abbiamo visto che in 3 anni siamo riusciti ad effettuare una manutenzione predittiva su 78 unità, evitando 78 fermi linea, e se lei considera che un fermo linea è calcolato intorno ai 25.000 euro, il saving è quasi intorno ai 2 milioni di euro. Comunque voi siete anche diventati abbastanza importanti in Italia, dove fate 128 milioni di fatturato, che fanno di voi una media azienda, medio piccola, ma considerando che in Italia c'è un colosso come Comau, non è poco. Sì, noi siamo in Italia dal 1988, quindi da moltissimi anni. Siamo specializzati in quello che viene definito general business, Comau lo è più nella parte automotive, e siamo cresciuti nel tempo, prevalentemente grazie a quella che è la dote fondamentale di FANUC, che è l'affidabilità dei propri prodotti. Uno pensa al robot, lo pensa sempre umanoide. Io quando sono stato nella vostra sede ho visto questi robot macchine che poi alla fine si presentano all'esterno come dei grandi cassoni dove vengono introdotti i pezzi da lavorare. Ci spiega un po' che cosa sono questi robot macchine? Queste robot macchine, noi le chiamiamo robot macchine, ma sarebbero praticamente delle macchine utensili, e ne facciamo di 3 tipi diversi. Sono delle piccole nicchie che FANUC ha sviluppato nel corso degli ultimi 30 anni. Facciamo delle macchine elettriche per iniezione plastica, facciamo delle elettroerosioni e facciamo di piccoli centri di lavoro. Ecco, io volevo un attimo spiegare ai nostri ascoltatori, che forse sono tutte preda, magari quelli non specializzati, del dibattito del luogo comune di basso livello, che l'automazione consente un incremento di produttività, vuol dire si guadagna di più. Guadagnando di più, questo significa che c'è più ricchezza per la comunità dove insistono le aziende, e ci sono anche più tasse che vengono pagate. Non solo, l'automazione necessita di forza lavoro a maggiore contenuto specialistico, di persone che programmano, di persone che hanno idee e di persone che fanno progetti. Non solo, l'automazione consente di riportare qui in Italia le fabbriche. Non è un caso, come è stato detto in una delle nostre puntate, che più aumenta l'automazione e più aumenta il reshoring, cioè produzioni che un tempo erano state mandate in Cina, in paesi in via di sviluppo, tornano qui da noi, perché non solo viene meno la convenienza nel avere una forza lavoro a basso costo, ma perché l'automazione, richiedendo conoscenze specialistiche, è meglio che stia vicino ai centri direzionali dell'impresa, perché per programmare i robot, per farli funzionare occorrono conoscenze che sono quelle che stanno nei centri direzionali dell'impresa o nelle università di alto livello che sono qui, non sono in Cina, o nelle società di consulenza. Quindi l'automazione, creando ricchezza e riportando lavoro qui, è la chiave per la nostra sopravvivenza. Non è un caso che l'economia più forte d'Europa, che è la Germania, sia quella dove c'è maggiore automazione. Allora, se distruggesse posti di lavoro, non si spiegherebbe come mai l'economia con minore disoccupazione, con più forza, sia quella dove ci sono più robot. Qual è il problema? Che nei passaggi intermedi, come in tutte le rivoluzioni, si crea un forte problema sociale, perché c'è una tipologia di lavoratori che verrà espulsa dal mercato del lavoro e non ci rientrerà più. Ci sono decine di migliaia di cinquantenni, quarantacinquenni che svolgevano mansioni ripetitive che andranno a casa e non hanno nessuna speranza. E questo è un problema che secondo me si può risolvere solo col welfare. Non è un problema che si può risolverla prendendosela con le aziende che innovano, facendo una tassa sull'innovazione. Si risolve probabilmente come fanno grandi paesi europei, è stato ipotizzato qui, col salario di cittadinanza. Lei che ne pensa? Ma riprendendo quello che diceva lei, oggi in realtà competiamo come Italia, come Europa, con paesi che hanno dei costi di lavoro, delle strutture produttive che sono più competitive rispetto alla nostra. Robot e automazione in generale permettono a queste aziende di restare in Italia e di non chiudere. Questa fase di transizione è sicuramente importante, perché così come vengono generati dei nuovi posti di lavoro, degli altri vengono persi, e si deve trovare quella che è la misura più opportuna per tutelare queste persone. Ricordo comunque che anche qui, dati di fatto, i robot hanno sostituito l'uomo nei lavori che l'uomo non può più fare perché usuranti o pericolosi per la propria salute, oppure che l'uomo non vuole più fare perché considerati non qualificanti. Comunque, quando si parla di robot, vengono sempre riproposti questi luoghi comuni del cavolo. Voi state anche per ingrandirvi, no? Per inaugurare un nuovo centro direzionale. Sì, abbiamo investito, stiamo costruendo una nuova sede che avrà un totale 12.000 metri quadri coperti, dove potenzieremo la parte di training per i nostri clienti, e noi lo chiamiamo Technical Center, anche in questo caso per fare prove per i nostri clienti. Voi pensate di assumere? E noi stiamo costantemente assumendo. Dal 2014, che è stato da quando sono diventato io amministratore delegato di Fanuc Italia, ad oggi siamo passati da 84 a 128 dipendenti. E in futuro? Continuiamo. Benissimo. E il curriculum si manda al robot o si manda a lei? Si manda a me. Ah, bene, bene. Purtroppo dobbiamo chiudere qui. Saluto Marco Gherardello. Buon pomeriggio a tutti, grazie. E saluto tutti i nostri ascoltatori che domani si risintonizzeranno con noi per una imperdibile puntata di Fabbrica 2.4, domenica, domani, ore 13:10. Ricordatevelo, domani 13:10. Se proprio non riuscite o vi dimenticate, potete ascoltarla dopo dal podcast. Buon sabato a tutti.